perfetto. Io qui seduto in cima ad uno stadio, tipo che mi si ferma anche il respiro, tipo che all'ultimo minuto fai 4-3 con il destino. Tipo Diego, tipo Baggio, tipo quelli che del calcio non gli frega un cazzo. Poi li vedi saltare in piedi sul divano come facevo da ragazzo. Perfetto, come a 20 anni andarsene di casa, come mio padre che mi cucina qualcosa. Ciao, guardare indietro e dirsi ciao è un battito di ciglia. Come si fa? Ti avevo tra le dita. Felicità, dove sarai finita? Come un concerto, milioni di voci a cercare la tua. Perfetto, sarà che dentro manchi all'infinito e che ho dimenticato come ritornare da te. Ricominciare. Io che a ogni schiaffo non riuscivo a ritrovare la via, ma diventare grandi senza schiaffi è solo utopia. E poi non c'è mai tempo di trovare il tempo per scoprire qualcosa che non sai più di te. E mi odio e mi piaccio, come adesso che nascondo la paura dentro al mio coraggio. Ciao, guardare indietro e dirsi ciao, ma quale meraviglia! Come si fa? Ti avevo tra le dita. Felicità, dove sarai finita? In un deserto di sogni e di amici che scappano via. Perfetto, sarà che dentro manchi all'infinito e che ho dimenticato che in fondo è perfetto come incontrarti per l'ultima volta, fare l'amore mentre lui ti aspetta. Ma stai tranquilla che domani è festa e non ti cercherò. Perfetto. Ricominciare, ricominciare.